Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Attenzione ascoltatrici e ascoltatori, che questa è una puntata specialissima, una delle puntate monografiche che stanno andando appunto in questo periodo, che manderò poi nei prossimi sabati. È puntata specialissima perché per la prima volta ho degli opinionisti d'eccezione. Voi immaginate, insomma, vari nomi altisonanti, ma ve li presenterò tra poco. Sono più opinionisti per una volta, insomma, ne ho messi parecchi insieme, e sarà veramente interessante sentire quali sono le loro opinioni, perché sono delle opinioni quasi in prospettiva e da un punto di vista, diciamo, molto particolare. Adesso mi attorciglio con le parole perché non voglio dirvi prima della presentazione ufficiale, insomma, di cosa si tratta, però direi che potremmo già partire. I temi saranno tanti, non sarà quindi soltanto uno in particolare, non saranno le notizie della settimana, saranno grandi temi di attualità, un grande afflato, e direi a Carmelo Lauricella, la parte tecnica, di lanciare pure la presentazione, sì? Abbiamo qui, signori e signori, Giulia, abbiamo Francesca, abbiamo Ambrogio e abbiamo Luca. Voi direte, sì, ma i cognomi, non so se il nostro Alessandro D'Avenia, che è presente anche lui, Alessandro D'Avenia è scrittore e insegnante di lettere al liceo, già stato protagonista qui a Non ci sono più le mezze stagioni, sceneggiatore, e è diventato un caso letterario quest'anno con Bianca come il latte, Rossa come il sangue, pubblicata da Mondadori. È un insegnante, e a questo punto vedremo se il suo mestiere lo fa bene o no, Alessandro D'Avenia. Vediamo, sì. Ci sono portato i migliori. Apposta. I migliori? Sì, sì. Quindi se già questi dovessero dire delle robe, immaginiamo gli altri, vero Alessandro? Ecco, quindi gli opinionisti di oggi sono quattro studenti di quinta ginnasio, che per chi non se lo ricordasse sarebbe, come dire, la seconda classe dei 5 anni del liceo classico, no? Esattamente. In seconda. Vogliamo dire di che classe, di che scuola in particolare, Alessandro? Dove il liceo sei? San Carlo di Milano. Liceo San Carlo di Milano, quindi sapete come quello che verrà fuori, come si insegna a San Carlo di Milano, se vale la pena effettivamente di abbandonare gli studenti a questo insegnante che è Alessandro. E sarà interessante appunto per una volta, invece di parlarci sempre tra adulti in modo serioso o a volte anche ironico sui fatti d'attualità, sentire un po' qual è il loro punto di vista. Questo significherà anche capire che mondo avremo, e potremo inquietarci parecchio in questa puntata, oppure, insomma, aprirci a nuove speranze. Tu, Alessandro, che opinione hai? Visto che, insomma, sei tu l'insegnante di lettere, no? Di lettere, quindi, sì. Il più importante, diciamo, liceo classico. La collega di greco e latino. Sì. Ci dà pure l'esempio, sì, insomma, sì, che è piuttosto importante. Sì, sì. E vogliamo dire, voi ci tenete a dire i cognomi, vogliamo dire soltanto i nomi? Giulia. Per me direi che bastano i nomi. Bastano i nomi, vogliono rimanere nell'anonimato, diciamo, nel caso dicessero. E i temi, allora, sono veramente molti. Si può parlare, non so, dal futuro, come lo vedono, il lavoro, la scuola, ovviamente, di cui faranno parte ancora per un po'. Ma gli altri temi non li voglio anticipare, perché li voglio proprio prendere alla sprovvista. Loro sono arrivati qui, sono ai microfoni e siamo già pronti per, insomma, scandagliare vari temi della vita e capire dal loro punto di vista, insomma, che valore hanno. Allora direi di partire già con un brano che ci introduce, diciamo, in una dimensione tra passato e futuro. Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Direi un brano di grande modernità, Luis Miguel, 1985, forse i ragazzi qui mi guardano un po' stupiti, non erano ancora nati, nessuno ha riconosciuto il brano, insomma. No. Siamo i ragazzi, siamo il futuro di poi, insomma, quelli in cui credere, quello che accadrà, ecco, adesso cerchiamo di capire se è vero. Allora, io direi, per partire con un tema molto leggero, insomma, un po' frivolo, io partirei dalla politica, che dite? Che va bene. Mi sembrano facce piuttosto, e forse anche in questo caso possiamo darvi un piccolo slancio, così un blocco di partenza. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Non so se sia troppo pessimistica per questi ragazzi che hanno tra i 15 e i 16 anni, dicevo Giulia, Francesco Ambrogio, Luca, ma mi piacerebbe capire loro come chi è il primo che vuole intervenire sulla politica oggi in Italia, che ne pensa? Mi sembra che Ambrogio sia quello più quotato, Ambrogio. Che dici? Tu da tanto tempo, no? Si dice che i ragazzi non sono più interessati, sono disaffezionati, sono apolitici rispetto ai ragazzi degli anni 70, già dagli anni 80, 90, nel 2000 proprio sembra che ci sia l'allontanamento totale. È così, tu ti interessi, interessa capire il tal politico, la tal politica, cosa succede, come risolvono o non risolvono un problema, Ambrogio? Abbastanza, dipende secondo me maggiormente dagli argomenti, se appassionano o meno. E c'è un argomento di politica che ti appassiona? Beh, per esempio i dibattiti sulla nuova legge sulle intercettazioni che riguardano anche il giornalismo e quindi un argomento che non riguarda solo l'economia o cose più difficili da comprendere per ragazzi della nostra età. E questo ti sembra un argomento facile da capire, le intercettazioni? No, non molto facile, però comunque interessante perché è una legge importante su un argomento che comunque possiamo a grandi linee comprendere. E poi ovviamente la politica ha ricadute anche sulla scuola, no? Voi vi siete accorti di qualcosa che riguarda la riforma? C'è già qualcosa che voi sentite direttamente sulla vostra pelle, Ambrogio? Beh, ovviamente capiamo e sentiamo cosa sta succedendo attorno alla scuola, i vari scioperi attorno alla scuola statale, però non lo viviamo direttamente. Francesca, tu sulla politica segui, c'è un politico in particolare, donna o uomo per esempio, quando lo vedi dici, ma insomma mi sembra che dica delle cose giuste talvolta. Beh, allora c'è un politico in particolare, no, però diciamo non sono a favore di un politico in particolare, però magari quelle di cui magari penso male, così, no, però cioè puoi dirlo senza censura, almeno tra noi, insomma, una volta che avete la possibilità di dire quello che pensate. Alessandro, ma a scuola si parla ogni tanto? Cioè i ragazzi fanno delle domande sulla politica, su cose che non capiscono, su quello che succede, perché del resto sono sempre i titoli di prima pagina, no? Dei giornali, dei telegiornali. Ma sì, si parla perché si ha la pretesa che la scuola abbia a che fare con la vita quotidiana, invece sembra spesso essere un non luogo in cui si combattono studenti, genitori e professori e una volta usciti da lì c'è la vita vera. Ma mi interessava quello che diceva Francesca, che diceva io penso male di alcuni politici, ora non entrerei nel merito di quali, ma mi piacerebbe sapere da Francesca che vuol dire pensare male, su che basi lei pensa male. No, penso male riguardo alle cose che dicono, magari ci sono delle frasi dette a sproposito che io veramente quando le sento cioè dico ma che cavolo ci fa questa in politica veramente, ma ci sono alcune persone, non tutte. Ti sembra, non so, per esempio a proposito, che so, a proposito sono posizioni diverse dalle tue o qualcosa sulle donne in particolare, no, negli ultimi mesi? Sulle donne adesso che l'Unione Europea voleva portare quello della pensione, dice? Tu pensi già alla pensione? No, però cioè riguardo alle donne adesso è la cosa, è la prima cosa che mi viene in mente. C'è un po' di misoginia, no? C'è un po' di maschilismo comunque. Sì, cioè, questo lo dimostra italiana. Anche perché le donne in politica sono molto meno degli uomini, questo è vero. Lo sai, insomma, sì, è un dato di fatto. Giulia, tu? Io credo che la politica sia più un gruppo di persone che aspirano al potere ma si disinteressano del bene del loro popolo, quindi fanno di tutto per guadagnare, per essere approvati dai loro elettori senza veramente pensare a un miglioramento comune e dire io rinuncio al mio stipendio, rinuncio a quel tocco di orgoglio ma approvo l'opinione del mio rivale oppure approvo una legge che va contro il mio interesse però a favore di quello del comune, quindi cercano il consenso, cercano il potere, secondo te la cadrega, la sedia, la loro poltrona, però senza difendere il bene comune. Secondo te ti piacerebbe prima o poi candidarti in politica? È una cosa che ti può interessare, Giulia? Penso di no, perché per la persona che sono io metterei in primo posto l'orgoglio, quindi piuttosto che diventare una politica preferisco seguirla al di fuori e commentarlo, approvarlo, quindi in prima persona direi di non voler farla politica. E Luca, che mi sembra pensieroso parlando di politica, tu è una cosa che ti interessa questa o preferisci in genere insomma concentrarti su altre questioni? Ti tocca in qualche modo? Sì, diciamo di sì, La politica certamente negli, diciamo, negli ultimi anni, ora io non sono così vecchio, quindi non so come fosse prima, 16 anni sì. Esattamente. Non sembra toccare spesso, diciamo, i problemi reali, spesso quello che interessa, di cui si parla, sono, diciamo, degli argomenti centrali per persone che hanno già dei ruoli di potere. Ma secondo te, per esempio, ti capita ogni tanto, segui il telegiornale tu, sì, uno qualsiasi, quasi tutte le sere. Ecco, c'è qualche volta ti viene da dire, ma cosa sta dicendo quello lì? Ma come gli viene in mente di dire una cosa del genere? Quasi sempre, però diciamo, la politica più che altro non si occupa, diciamo, di razionalità, ma di convenienza, quindi quello che dicono è sempre funzionale a quello che gli conviene. Ci picchia, quindi abbiamo Alessandro, mi pare un certo pessimismo, un po' lapidari questi ragazzi, già alla loro età sono piuttosto disincantati rispetto... C'è un mondo esterno che mette in discussione quello che noi cerchiamo di insegnare in classe, la correttezza, la puntualità, tutta una serie di regole che a fatica cerchiamo di far passare in questi anni meravigliosi e difficili che loro stanno attraversando. Ma quando fuori vedi che appunto le posizioni di potere poi sono sfruttate per il proprio tornaconto, è chiaro che è inevitabile avere un po' di pessimismo. Però proprio questa battaglia che noi facciamo in classe è la speranza di donare al mondo persone che un po' lo cambino questo ambiente. Mi ricordo chi ha detto insomma qualche tempo fa, insomma, prima di far muovere il mondo muovi te stesso. Giulia, ti sembra insomma una cosa giusta, opportuna? Beh, sicuramente la prima cosa da fare è convincersi delle proprie idee, e quindi una volta che ci si è convinti si può convincere anche chi ti ascolta, quindi sicuramente si parte dal proprio essere, dal proprio io, per poi andare a convincere le altre persone, quindi essere in buona fede. Esatto, esattamente. Se tu dovessi dire, Giulia, un qualche problema sociale che vedi che rimane un po' irrisolto, o magari per il quale vengono prese delle misure che ti sembrano poco idonee, c'è qualcosa che diresti, io questa cosa la risolverei così? Ti viene ogni tanto? Sicuramente la disciplina. La disciplina a livello scolastico e a livello di una città, perché una volta che si festeggia una partita di calcio oppure uno sciopero o anche soltanto alla fine dell'anno, quindi si passa all'anno nuovo, c'è modo e modo di festeggiare. Ci sono città che lasciano i marciapiedi puliti, ci sono città che invece le riempiono di sporcizie, quindi io partirei dalla disciplina anche a livello delle persone, in televisione, sulla radio, ovunque. Quindi un po' il senso civico, no? Esatto. Prima di tutto. Beh, insomma, avete sentito un assaggio di come dei giovanissimi, 15-16 anni, possono pensare. Adesso mi ha tirato fuori appunto un argomento così impegnativo come la politica, però poi ne tratteremo altri. Adesso qualcuno comincio a lanciarglielo così nella prossima pausa per gli aggiornamenti. Per chi sta viaggiando potete provare a pensarci. Una cosa che sicuramente vi appassiona sarà internet, Facebook, i social network, no? Se davvero voi avete questa dipendenza, si parla addirittura di una generazione digitale, no? Rispetto insomma a qualche anno fa. E poi c'è il lavoro, l'ambiente, vi sentite in qualche modo coinvolti in quello che sta succedendo? Cosa pensate e cosa ne parlate a scuola di ambiente, di inquinamento, dei cambiamenti climatici, oppure cose che magari possono essere un pochino più vicine a voi, non so, l'utilizzo anche, non so, se conoscete qualche coetaneo di droghe, di stupefacenti. No, mi pare che alla vostra età qualcuno già abbia cominciato, e quindi insomma tante le idee, piuttosto diciamo di peso corposo, quindi vi lascio qualche istante per riflettere e ritorniamo tra pochissimo. Non ci sono più le mezze stagioni. Siamo sempre qui per una puntata davvero molto speciale, ascoltatrici e ascoltatori, Roberta Giordano con voi, perché è una puntata sui grandi temi d'attualità, non quelli strettamente legati alla settimana, ma temi che sono, diciamo, evergreen, un po' sempre verdi, alcuni per fortuna, altri purtroppo. E gli opinionisti di oggi sono ragazzi tra i 15 e i 16 anni del seconda liceo classico, oppure dice meglio quinta ginnasio, dell'insegnante, scrittore, ormai famoso, Alessandro D'Avenia, che ricorderete è stato anche ospite di Non ci sono più le mezze stagioni qualche mese fa con Bianca bianca come il latte, rossa come il sangue, che diciamo ha una doppia vita, Alessandro, no? Fai anche l'insegnante, principalmente fai l'insegnante. Stiamo cercando di capire se quello che passa a questi ragazzi, che saranno poi il futuro dell'Italia, insomma, ci può rassicurare oppure ci può anche in qualche modo spaventare. Abbiamo parlato adesso di un argomento piuttosto corposo come la politica, ed è interessante vedere appunto per una volta dal loro punto di vista, quelli che saranno poi gli adulti di domani, cosa pensano di temi così impegnativi. Invece, tornando su una cosa che può esservi sicuramente più vicina, no? Ci sono Giulia, ci sono Francesca, Ambrogio e Luca. Francesca, i social network, Facebook, è vero che siete proprio degli impallinati tutti quanti, che senza il computer davanti non vivete? Vabbè, non è che senza il computer non vivo, però la sera magari quando torno, quando ho fatto i compiti così, non ho nulla da fare, magari mi metto un'oretta, due, ecco due, e magari non so. Ciao, due e mezzo? No, però. No, due, non più di due perché poi i miei genitori si arrabbiano. E, no, niente, mi metto lì e ogni tanto, cioè, parlo con le persone, comunque è come chatti, se fosse così. Sì, chat, è come se fosse un diario però scritto sul computer e che tutti gli altri possono vedere. Ma sono tutti i tuoi coetanei o a volte succede, no? C'è la paura di certi genitori che magari si interferisca qualche adulto con intenzioni poco raccomandabili. Diciamo che ci sono gli adulti su Facebook, quindi per forza se uno è coscienzioso sa che non può accettare delle certe persone su Facebook perché non le conosce e quindi devi stare sempre un po' attento, però generalmente almeno a me non è mai capitato nulla di strano, diciamo. Questo, Alessandro Deveni, è un tema che... Poi avete i computer adesso a scuola, come funziona lì al liceo? Sì, sì, abbiamo i computer che servono più che altro per registrare i voti, è tutto così trasparente, sai, un tempo c'era questa scuola in cui i prof si potevano permettere di non dare subito il voto, invece adesso è tutto evidente da subito, così i genitori sono consapevoli di quello che sta accadendo. E prendono le dovute misure nel caso. Sì. Abbiamo questo strumento molto interessante che si sta diffondendo nelle scuole della lavagna elettronica, che è un grande aiuto in un'epoca in cui loro imparano tendenzialmente attraverso le immagini. È importante rendere l'insegnamento più appetibile attraverso le immagini. E dei social network ne parlate mai? Sì, io sono su Facebook e ogni tanto capita anche di dialogare con loro. Anche nel doposcuola, insomma. Sì, sì, sì, ma... cioè, Internet è uno strumento, come tutti gli strumenti diventa buono o negativo a seconda di come lo si usa e di chi lo usa. Stamattina ho proposto dei titoli di libri per quest'estate da leggere sotto l'ombrellone e immediatamente 3.000 persone leggono queste proposte, quindi può essere anche uno strumento molto efficace e capillare. E come lo usa questo strumento invece Luca, per esempio? Io, diciamo, sono iscritto a social network come Facebook, però... penso che si sopravvalutino a volte questi strumenti, nel senso, sono utili perché mettono in contatto persone che altrimenti non si conoscerebbero mai o comunque ti aiutano a mantenere contatti, però personalmente ritengo, credo, sia migliore conoscere le persone direttamente, faccia a faccia, diciamo. Invece che virtualmente. E tu, Ambrogio, mi guardi un po' di sottecchi? No, io non ho Facebook, ah, non mi piace. Quanti anni hai? 16. Abbiamo una mosca bianca, Alessandro, sì. No, perché non mi piace, non mi diverto, odio questa cosa delle foto per apparire, farsi vedere. La rincorsa a tutti gli amici, sì, io ne ho 152, punto. Io ne ho 5600. La gara chi ha più contatti, la gara chi ha più le foto più stilose, non mi piace e non sento assolutamente il dovere di averlo, perché tutti ce l'hanno. Ma questo non ti fa sentire, perché spesso, no, come sempre, tra i più giovani c'è questo bisogno un po' di omologarsi, sentirsi, no, uguali agli altri, di non sentirsi diversi. No, no, no. No, perché comunque i miei amici ce li ho, quindi se devo parlarci o comunque se ci devo uscire li chiamo, faccio prima. E quindi appunto non sento assolutamente l'obbligo, il dovere o la voglia di avere Facebook per omologarmi a tutti gli altri. Che cos'è che ami fare per esempio nel tempo libero, no? Perché questa di internet, di social network è una cosa che prende una certa porzione di tempo, soprattutto dei più giovani, non solo. No, per esempio, parte l'Inter, che parte dicevi. Sì, beh, senza essere ruffiano, mi piace molto ascoltare la radio, per esempio. Radio 24 per caso? Sì, o se no Radio Rai 2, RTL, Po' di tutto, ma soprattutto io lo so, Radio 24, sì, Ambrogio, siete... la mia preferita. Li insegniamo subito a cercare il consenso, sì, come diceva prima Giulia. Giulia, tu sei invece una che chatta, che sta lì un po' a smanettare volentieri. Dunque, la mia storia di Facebook inizia nel 2008, quando un amico mi chiede, allora stasera ci parliamo su Facebook. Adesso c'è la cronologia dei due anni, quindi... No, tutte... io non ce l'ho. Come non ce l'hai? Non è possibile. Si usa tra di voi dire se è uno sfigato, se è una sfigata. No, così no, però insomma in quel momento era necessario averlo, quindi ho creato Facebook e da lì per me è diventato un passatempo e anche uno strumento per parlare con degli amici. Come primo punto io direi che passatempo salva. Passatempo quanto tempo? Un paio d'ore al giorno. Un paio d'ore al giorno anche tu, sincera? Sincera, forse anche di più, ecco. Però in media sono 2 ore. Sicuramente risparmio dei soldi, perché piuttosto che chiamare o messaggiare con il cellulare diventa più comodo anche andare su internet e vedere una serie di amici online piuttosto che doverli contattare tutti singolarmente. Quindi i genitori ringrazieranno per questo, le bollette sì, sono meno pesanti. Anche quello. L'unica cosa ti distrae un po' dalla realtà. Se c'è una bella giornata e tu sei su Facebook, non ti viene l'istinto di chiudere ed uscire. È un processo un pochino più lento, però sicuramente per me Facebook o comunque i social network sono un'alternativa alla comunicazione. Secondo te non c'è a volte il rischio di solitudine, no, in questo modo di comunicazione virtuale, però alla fine ognuno poi sta chiuso nella sua stanzetta o comunque davanti a un computer, c'è poco contatto, mimica, quello che vogliamo, insomma, comunque avere davanti delle persone in carne ed ossa? Beh, questo è soggettivo. Nel mio caso, se vedo 3 o 4 dei miei amici online, dico a tutti questi, usciamo, ci troviamo tra un quarto d'ora, e quindi si usa come strumento per dire usciamo e troviamoci faccia a faccia piuttosto che rimanere qui a parlare. E poi è soggettivo. Io direi a questo punto invece di passare a un tema che ha a che fare ovviamente con i rapporti interpersonali e che diciamo può in qualche modo riguardare Facebook, ma solo così lontanamente come approccio un po' più. Per esempio, i rapporti con i vostri coetanei oppure il pensiero diciamo della sessualità. Adesso io non vi chiedo ovviamente qui se già questa dimensione alla stata da venire indica Francesca come dire ma lei è un'esperta in queste cose. No. C'è qualcuno di voi, adesso non vi obbligo tutti e quattro, che so che è un argomento imbarazzante anche a 90 anni a volte, però insomma siamo persone aperte, non... Francesca, tu hai un'opinione ben precisa su la sessualità tra coi... il parlarne, ne parlate. Allora, non far finta, adesso tanto Alessandro mi sembra persona aperta, no, è lungimirante. Non saprei cosa dire, cioè. Diciamo che... È un argomento che ogni tanto a scuola, insomma, vi... Ma sì, ma anche scherzando, cioè, se ne parla, ma non è che... Non siamo, diciamo, persone bigotte, ecco. Ne parliamo così, ma... Non vedo cosa c'entri Facebook e robe del genere. Io, in qualche modo, no, il fatto di avvicinarsi a volte, rompere il ghiaccio, sì, senza... Ecco, ecco. Per quello è più facile, perché diciamo non si ha, diciamo, l'ansia che devi parlare, cosa gli dico. Su Facebook non è che vedi la reazione che uno ha appena gli dici certe cose. Magari quello davanti a uno schermo non si rende conto che ha fatto una faccia tipo cosa mi vuoi dire, ecco, lasciami stare. In realtà metti un emoticon, metti una faccina e tutto si risolve, è tutto più facile. È tutto più veloce. Sì. Invece Ambrogio di questi mezzi proprio non ne fa uso? È un argomento questo che in classe ogni tanto, con i coetanei, quando vi trovate fuori, viene fuori, verrà fuori, no? Certo. Facciamo gli 16 anni, mi sembra impossibile non parlare di sessualità, o sarebbe comunque strano non parlarne a 16 anni. Però, voglio dire, è un argomento come altri. Io a riguardo, per esempio, preferisco non parlarne tanto perché, sono una persona abbastanza... Riservata su questi argomenti. Preferisco farmi i fatti miei. Alessandro, senti, è da tanti anni che si dice nella scuola bisogna introdurre l'educazione sessuale, bisogna cercare di dare un'educazione anche in questo senso ai più giovani, no? Perché vivano i rapporti in modo più equilibrato, consapevole. È una cosa che salta fuori ogni tanto, anche se tu sei insegnante di lettere, insomma, dovresti essere un punto di riferimento comunque. Sì, se ne parla. Quest'anno ne abbiamo parlato affrontando i promessi sposi, quindi figurati. Siete partiti da lontano, diciamo. Ed è stato molto interessante. Quello che mi piacerebbe chiedere a loro è: ok, parlarne tra coetanei, ma parlarne con adulti, cioè i genitori che stanno facendo su questo argomento, perché se siamo arrivati al punto che è la scuola a dover dare questa l'agenzia educazione affettiva, io la chiamerei affettiva più che sessuale, se no sembra che sia sempre associata alla paura di rimanere incinta e quindi diventa semplicemente come evitare tutto questo. Certo. E invece una delle cose più belle che c'è nella vita di un uomo e di una donna, quello che mi piacerebbe capire è loro se hanno questa percezione invece di un argomento che da un lato può essere un po' tabù, dall'altro fa un po' paura, dice devo stare attento a questo, a quest'altro, cioè se i genitori entrano in questo territorio che è difficile senz'altro. Giulia, i tuoi genitori entrano in questo territorio? I miei genitori entrano in questo territorio, sì. O più che altro abbiamo costruito un rapporto tale per cui si riesce a parlare di quasi di tutti gli argomenti senza vergognarsi, senza diventare rossi o appunto non riuscire nemmeno a nominare l'argomento, che può essere la sessualità e quindi un argomento tabù. Francamente a me piace avere la confidenza con tutte le persone con cui parlo, per cui si riesce a parlare senza problemi, quindi se è politica, sessualità, calcio, qualsiasi opinione, a me piace poter avere opinioni da tutti, quindi senza problemi. Ora un'altra cosa, passando a un altro argomento invece, è che modello di persona, di personaggio avete come adulto, no? Luca, ti segnalano, come dire, lui sì che non è lui, Giulia, Luca non è il tuo modello di riferimento come adulto, non no? Ancora. C'è la tua età, quindi vedremo cosa diventerà nel futuro. Provate un po' a pensarci, che lo guardiate in televisione, uomo o donna che sia ovviamente, che sia appunto faccia parte della politica, della cultura, della televisione, dello sport, c'è qualcuno che insomma vi fa sentire che quello potrebbe essere effettivamente una figura di riferimento per voi che siete ancora così giovanetti, tra i 15 e i 16 anni? Luca, ti stai pensando, ti viene in mente qualcuno che dice ah, quella è una qualcuno, persona? Qualcuno, diciamo, come persona esistente, no. No, non esiste, proprio non siamo messi, diciamo, male. Come modello ideale, sì. Una persona indipendente, una persona, diciamo, che sappia anteporre la propria, quello che pensa ai propri interessi, una persona coraggiosa, però diciamo, nel senso... Stai pensando a Robin Hood, tu? No. No, diciamo che comunque we are looking for. Stai cercando? Sì, stiamo cercando. Ancora non ti viene in mente? Né tra quelli esistenti, né tra quelli morti e trapassati. Né tra quelli morti e trapassati. C'è proprio nessuno. Va bene, allora adesso invece sono privilegiati Giulia, Francesca e Ambrogio, perché ci prendiamo questa piccola pausa per la pubblicità. Voi intanto pensate, cioè, dateci una speranza, diteci che qualcuno esiste, che insomma può essere una persona decente. A tra poco. Non ci sono più le mezze stagioni. Sono qui in mezzo a tanta gioventù per questa puntata monografica specialissima di Non ci sono più le mezze stagioni, perché ho scelto come opinionisti questa volta delle persone sotto i 18 anni. A volte diciamo, facciamo sempre parlare, no? Esperti, titolati, che hanno dell'età decisamente superiori. Per una volta cerchiamo di capire invece sui grandi temi d'attualità cosa ne pensano i giovanissimi, che non siano soltanto i luoghi comuni con cui, gli schemi con cui noi li giudichiamo, con cui li definiamo. Lasciamo che parlino loro liberamente, e questo grazie anche ad Alessandro Davenia, insegnante, scrittore, diventato famosissimo come Bianca come il latte e Rossa come il sangue, di cui abbiamo già parlato, Alessandro, quindi troveremo magari anche un'altra occasione. Intanto stai vivendo della luce, insomma, che ti ha dato questo successo. Sono ragazzi della quinta ginnasio, quindi per chi non se lo ricordasse, non lo sapesse, è la seconda classe dei 5 anni del liceo classico, tutti tra i 15 e i 16 anni. Ci sono Ambrogio, c'è Luca, c'è Francesca, c'è Giulia, che ci stanno dando un po' le loro opinioni, dalla politica alla sessualità, internet, social network, eccetera eccetera. Ora chiedevo con speranza se avete un modello di riferimento tra gli adulti, da qualsiasi ambito provengano, no? Uno che vi fa dire ecco, mi piace quella persona, dice delle cose giuste, voglio in qualche modo assomigliargli, oppure i suoi valori effettivamente li posso condividere. Giulia, dimmi che c'è qualcuno, qualcuna. Per ora no, diciamo che tutti hanno dei difetti, e come modello mi piacerebbe trovare qualcuno i cui difetti non li riesco a vedere. Ci sono, dici, ma ovviamente sono una persona battanti. Esiste dalla mia destra, che è il professor Alessandro Davenia. Ci picchia, quindi... i voti, la promozione è già stata assicurata, quindi insomma no, probabilmente. Si assicurano, investono per l'anno prossimo, Alessandro, così tu sai già che insomma... Credo di sì, ma comunque Giulia non ha bisogno di spinte. Però è vero che è importante, forse proprio a questa età invece, Alessandro, avere degli insegnanti che uno possa in qualche modo stimare, ammirare, che quindi quindi impari, diciamo, con piacevolezza e con attenzione da quello che un insegnante dice e che possa davvero rappresentare un modello di riferimento. Si parla spesso male anche degli insegnanti, no? Sì, purtroppo è una categoria un po' vituperata. Io ho avuto due insegnanti straordinari, se faccio l'insegnante, grazie a due maestri che ho avuto, non li chiamo neanche professori, perché il mio professore di lettere balbettava alla sua veneranda età spiegando Dante, e questa luce negli occhi che aveva, il perdere la parola, per me appassionato, è stato, sì, è stato il primo a regalarmi un libro di poesie, dei suoi, insomma, dei gesti che mi hanno segnato. E il secondo è un professore, era il professore di religione della mia scuola, cioè di alcune sezioni, non direttamente il mio, dei miei amici, che era padre Puglisi, che per le parole padre che diceva Puglisi in classe a un certo punto è morto, l'hanno ammazzato per Beh, la, sei per stato la coerenza. Esattamente. Un maestro del genere. E quando a 16-17 anni hai persone che prendono posizione così chiara in confronto alla verità, alla bellezza, al bene, poi sei costretta anche tu a fare i conti con queste cose. Francesca, tu, un uomo, una donna, è possibile che non ci sia una donna? Se dovessi prendere esempio adesso dalle persone che vedo in televisione così, veramente non ci sarebbe nessuno, perché comunque i modelli che ci presentano ora sono calciatori, veline, e persone, diciamo, che hanno avuto la loro fortuna grazie a non delle qualità strettamente intellettuali, ecco, e quindi non le prenderei come modello di riferimento. Tu sai che un grande scandalo abbastanza di recente, insomma, è scoppiato proprio per la candidatura di alcune giovani fanciulle che facevano mestieri forse poco collegati alla politica, che avevano avuto, sì, certamente non un percorso, una gavetta. Beh, in quel senso, che cosa hai pensato? Beh, non è detto che siano proprio stupide. No, ma questo no, assolutamente no. Quindi non posso giudicare perché non ho seguito molto l'argomento. Tutto quello che so è che c'è stato, diciamo, delle controversie riguardo a questo argomento, e quindi, insomma, non sono stati molto d'accordo perché hanno giudicato l'aspetto fisico prima delle loro qualità. Ora vedremo come si comporteranno in politica. Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione, che la gente... E quindi, insomma, ce l'ha introdotto un po' Francesca questo tema che avevo in mente, che appunto la televisione, che sicuramente Alessandro D'Avenia, anche quello è un'agenzia, diciamo, educativa, che potrebbe essere educativa, molto presente, ma che effetto fa, insomma, quello che vedete in televisione? Francesca diceva, lì non ho sicuramente modelli di riferimento, ci sono poi dei personaggi messi in primo piano che sinceramente, di cui non riesco a avere molto stima. E tu, Ambrogio, rispetto alla televisione, passi di parte, visto che non hai Facebook, passi del tempo davanti allo schermo un po' più grande di quello del computer, oppure sì, no? Sì, certo, però sinceramente non mi piace. Ho Sky, quindi per fortuna ho altri programmi al di là di Canale 5, Italia 1 o Rai 2, però non ci trovo nulla di appassionante o di coinvolgente. Che cosa ti piacerebbe partire da Rai 1? Cosa ti piacerebbe invece poter seguire? C'è un qualche tipo di programma così in genere che può interessarti di più di quello che offre la TV? No, adesso senza esagerare o fare tanto l'acculturato che non sono, mi diverto molto a guardare un canale su Sky che si chiama Current e che si occupa di indagini, di giornalismo, vari argomenti che riguardano la criminalità, spaccio di stupefacenti nelle grandi metropolitane, vari argomenti etici, quali l'aborto, e sono servizi fatti bene da giornalisti molto bravi sul campo, e quello è un tipo di giornalismo e di televisione che è intelligente. Al Gore, no? Sì, Al Gore, ex candidato alla presidenza. Che appunto è un giornalismo e una televisione intelligente che mi informa e allo stesso tempo mi appassiona e mi diverte. E tu, Luca? A proposito di TV? Spesso in televisione si vedono questi programmi la sera, questi quiz a premi, che sinceramente a me non piacciono. Dai pacchi agli identikit. L'unico forse che si salva è il milionario, però diciamo questi programmi che riempiono le serate, i pomeriggi, non mi ispirano. A te le svuotano invece i pomeriggi? Sì, esatto, le svuotano, se ci sono preferisco spegnerle. La televisione, diciamo, mi interessa più che altro per i film o per documentari o per inchieste che, diciamo, sinceramente mancano. Sembra quindi quasi... cosa guardi? Per esempio un programma come Report di Milena Gabanelli su Rai 3 è un programma che un programma guardi? Come Report, oppure programmi su Sky come History Channel, oppure altri programmi, non vorrei, ma di dibattito politico come Bella Ro, programmi simili. Li segui sì, volentieri. Sì, volentieri. Anni 16 tu. 16. Giulia? Io non guardo televisione. Non guardi televisione? Non guardo televisione, mi piacciono molto i film, quindi andare al cinema. Però sinceramente durante la settimana sono ormai quasi 6 anni che non accendo più la televisione, se non per qualche raro programma. O serie televisione che invece appassionava perché era divertente senza coinvolgere per forza la volgarità o la stupidità delle persone, ma metteva in gioco dei valori umani. Io adesso non per far propaganda, però i Cesaroni faceva parte di questa categoria che era un semplice report di quello che è la famiglia. Cioè una fiction che però secondo te sì, esatto. Rispecchiava un po'. Quindi televisione non ne segue, non mi piace quel poco che vedo o che mi raccontano, rappresenta uno strumento che appunto è la televisione che viene usato in maniera pessima perché educa i ragazzini fin da piccoli a guardare solo l'aspetto esteriore, a non sviluppare le proprie capacità e a ridursi in stati di seminudità in televisione per far ridere le persone. A volte anche per pubblicizzare uno yogurt, Ma sì, diciamo, c'è questo bisogno. Cioè, vedete, sentite un po' che cosa dicono i ragazzi di 15-16 anni. Io non so se sia solo perché come insegnante hanno Alessandro D'Avenia, io spero che anche gli altri che sono privi di tale presenza, di tale modello, possano fare, insomma, ragionamenti così illuminanti. Ma il punto è che c'è una scollatura tra l'adolescenza, così come ci viene raccontata mediamente dai mezzi di comunicazione, com'è realmente, come io la vivo, la respiro da 10 anni a questa parte, che è il tempo di quando insegno, ed è sorprendente vedere la distanza. E quindi c'è un piano di discorsi che si fa in una televisione che è mirata non si sa bene a chi, e poi c'è un altro piano di gente, appunto, come sentivamo prima, la televisione neanche la guarda, o se la guarda è per scegliere dei programmi che realmente interessino. Questa scollatura sarebbe interessante un po' analizzarla e riavvicinare appunto ciò che si è scollato tra paese reale e paese raccontato. Proviamo a incollarlo. Senti Francesca, invece cosa pensi? Cioè questo infinito, milionario dibattito e controversia, insomma, nei rapporti tra donne e uomini, no? Questa cosa è una roba vecchia come il mondo. Tu, nei rapporti tra i tuoi coetanei, no? Tra ragazze e ragazzi, insomma, ti sembra che ci sia un certo equilibrio, una certa parità, che sia diverso, che so, dai genitori, nonni? Come... C'è sicuramente del confronto tra ragazza e ragazzo, ma non interferisce assolutamente con, diciamo, i rapporti. Cioè, sicuramente se sei una ragazza, se sei un ragazzo, non fa alcuna differenza. Allora, ovviamente basta esprimere le proprie opinioni, se vengono rispettate non è perché sei una ragazza, è perché magari pensi delle cose stupide. Luca, tu che cosa pensi? Tra ragazzi e ragazzi vi intendete bene? Cioè, sì, reciproca, diciamo, stima? Penso che ormai non ci siano più grandi differenze quando si parla, perché certo su certi argomenti si rimane comunque un po' distaccati e le amicizie a volte... Uno in particolare, su quale argomento rimanete un po' ognuno rigido sulle proprie posizioni tra ragazzi e ragazzi? Bene, ad esempio lo sport, i ragazzi sono più appassionati, mentre... Le ragazze di moda, però non è per forza detto. Queste differenze comunque si stanno appianando. Nel senso. Secondo te, Ambrogio, c'è un buon rapporto? Dipende dalle due persone. Secondo me questo è un discorso troppo soggettivo, cioè nel senso... Tu hai in mente di farti una famiglia prima o poi, oppure hai certo. Altre... Spero di non morire da solo, ecco. No, beh, ti pare una cosa abbastanza scontata questa? O dici, ma mi interesserà avere una persona accanto, poi si vedrà, insomma, cosa fare. No, voglio avere una moglie, un figlio, due figli, nel senso... E come vedi questo rapporto tra te e la futura compagna? Beh, spero buono. Spero di non divorziare un'idea... dopo il secondo anno di matrimonio. Che ti sembra che sia una tendenza abbastanza diffusa? Sì, abbastanza, questa. Purtroppo. Ed è abbastanza triste. I vostri genitori, se posso chiedervelo, sono ancora insieme, Ambrogio? I miei sì, per fortuna. Luca? No. Sono separati. Tu, Francesca? Sì, sono insieme. E tu, Giulia? Anche i miei sono insieme. E tu che idea hai, per esempio, dell'idea del futuro tuo nelle relazioni personali? Poi parleremo anche, se volete, di lavoro, di prospettive. Relazioni personali come oggi mi piace essere circondata da persone sincere, al di là che sia mio marito, che sia mio figlio o un carissimo amico, l'unica cosa che io cerco di trovare in una persona è la sincerità, e oggi come oggi è veramente difficile. Ma sei d'accordo con Ambrogio che una delle massime aspirazioni vostre, vedendo un po' il mondo adulto, è quello di stare insieme a qualcuno per lungo tempo, possibilmente diciamo per sempre, anziché prima o poi vedere fallire, come succede insomma abbastanza diffusamente la propria storia? È una cosa che ti preoccupa questa, un impegno che ti prendi così almeno idealmente adesso? Per ora no, preferisco pensare a una carriera e mettere in prima posizione il lavoro, che oggi è la scuola e domani sarà l'università o quel che sarà. Però delle relazioni, ovvio che mi piacerebbe avere una relazione duratura per sempre, però tengo in considerazione l'aspetto che non potrà anche non essere così. Senti, e a proposito di futuro, intanto è interessante vedere, no, Alessandro Davegna, come Ambrogio, che è un ragazzo, pensi nel suo futuro, soprattutto appunto all'idea di famiglia con dei figli, e Giulia rispetto al pensiero tradizionale, no, punti su un lavoro che la possa gratificare. Che lavoro potrebbe essere, Giulia? C'è qualcosa che a 15 anni, 16 anni già ti si prospetta? Beh, a me piacerebbe intraprendere la carriera di avvocato, perché può dare molte soddisfazioni a livello personale, mette in gioco la persona che sei. C'è qualche esempio? Tu cosa vedi dei telefilm? A parte che hai detto che la televisione non la vedi, cosa ti piace della professione di avvocato, insomma, che ti incuriosisce? Il fatto di potersi ribellare ed essere abile nel parlare, ecco, e nel non mostrare dei punti di te, cioè della tua personalità che non puoi giocare. Ah, quindi sono un po' velati dietro questa, la possibilità di recitare un ruolo, che sia un lavoro serio, insomma, ma nascondendo le parti di sé, avendo questa o quella, che mi sembra che a Giulia non manchi. Ma intanto ci fermiamo così, riposiamo un po' le voci e i pensieri. Ci saranno altri temi tra poco con questi ragazzi del Liceo San Carlo di Milano, portati da Alessandro Davegna, e poi sentiamo quali sono gli altri temi. Non ci sono più le mezze stagioni. Parte finale di questa puntata specialissima, Roberta Giordano sempre con voi, e soprattutto con voi, con me ci sono quattro baldi giovani, ci sono Giulia, Francesca, Ambrogio, Luca tra i 15 e i 16 anni, il loro insegnante, modello di riferimento, come hanno detto Alessandro Davegna, scrittore e soprattutto insegnante di questo liceo classico del San Carlo di Milano. Quante cose interessanti sono venute fuori, invece di avere i soliti opinionisti che io invito qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Per oggi ho voluto, proprio deciso fermamente, voglio avere l'opinione su grandi temi d'attualità, non solo le notizie della settimana, da persone insomma di età ancora acerba, ma che, come avete sentito, cominciano insomma a carburare, a macinare pensieri che ci fanno prevedere, prospettare quale sarà il futuro. Poi c'è sempre tempo per cambiare, Alessandro Davegna, spesso soprattutto in peggio, devo dire, però siamo ottimisti. Ma guarda, io quando entro in classe il primo giorno di scuola di una classe nuova e faccio finta di essere dentro un film di fantascienza. Se il mondo al di fuori esplodesse, finisse tutto e rimanessimo solo noi in vita, che mondo restituirei, appunto? Quindi la sfida è che quei venti che ho di fronte siano veramente il mondo tutto intero. E ti senti in pace con te stesso quando vai a dormire. Sì, è l'unica mancia, mi devo poter guardare allo specchio la sera. Allora, abbiamo veramente toccato tanti argomenti, da internet alla politica, veline e calciatori, il futuro, la sessualità, il rapporto tra i sessi. E prima ci diceva Ambrogio, no, che interessano soprattutto i programmi per quanto riguarda la TV, anche di questo abbiamo chiamato i programmi di inchiesta. Dicevi dove, per esempio, si parla di temi etici, di aborto, dei giovani, delle difficoltà, degli stupefacenti, eccetera. A proposito di consumo di droga, anche qua non facciamo gli ipocriti, sappiamo che è un argomento purtroppo sempre più pesante. Quando si parla di cocaina, voi lo sapete, è una delle droghe sempre più diffuse, diventa quasi un modo per reggere quasi le difficoltà della vita, che siamo in un modo un po' idiota, no? Sinceramente non so cosa ne pensiate voi, però tra voi giovani ogni tanto questo argomento lo trattate, Ambrogio? Tra voi ragazzi, ancora men che giovani, nel senso proprio... Beh, purtroppo più che trattarlo, molte volte lo tocchi con mano tua questo argomento, perché, e non dico solo nelle compagnie sbagliate, ma vedi ragazzi o amici che iniziano con, si può dire, uno spinello, una canna, quel che l'è, e poi non finiscono più. E poi si parla tanto, anche un altro argomento, no? Di liberalizzare la marijuana, però poi vedi che se esageri, vedi che fine fanno, e purtroppo vedo dei miei amici che non riescono più a riprendersi e che sono veramente schiavi di questo problema, che poi è un problema perché si ripercuote sulla vita privata, sulla scuola, sulle amicizie, e diventi schiavo di questo problema che è molto grave. Luca, anche tu lo senti così, questa cosa di coetanei intorno che prendono certe strade? Sinceramente penso che non sia diffuso come si pensa, però comunque è certamente un problema reale. Non è un, diciamo, qualcosa che si vede solo in televisione, poi è diffuso soprattutto tra i giovani, e diciamo sono anch'io contrario alla liberalizzazione, perché comunque diciamo che è un po' quasi una moda, e quindi una cosa che tiene molto a freno il consumo di stupefacenti sono i prezzi elevati dovuti al fatto che appunto non è legale. Se fosse legalizzato i prezzi scenderebbero molto, e quindi diciamo molte più persone potrebbero avere accesso, anche perché diciamo tra i giovanissimi non ci sono disponibilità di economiche necessarie a comprare una dose, due dosi, tre dosi a settimana. Giulia, secondo te invece questa cosa della liberazione potrebbe essere avere anche un controcanto, nel senso che però se poi fosse accessibile, diciamo, a tutti, a chi vuole scegliere questa strada purtroppo non corretta, non potrebbe essere che però tutto lo spaccio, il business mondiale della droga, avete mai pensato, già avete mai parlato a scuola del fatto che se non fosse una cosa proibita, in realtà tutti quelli che ci mangiano, che quindi vogliono moltiplicare i loro affari e quindi sollecitano sempre di più le persone a consumare droga, scomparirebbero così in una bolla di sapone? Beh, qui parliamo di liberalizzazione della marijuana, senza contare la cocaina, l'ecstasy e tutte le altre droghe, che poi sono quelle veramente pesanti e che coinvolgono lo spaccio e quello, il cosiddetto mercato nero, eccetera. Io sono contraria alla liberalizzazione perché comunque tiene a freno, seppur poco, il consumo di queste droghe. La cosa spiacevole è che, liberalizzata o no, verrà comunque utilizzata oggi e nei prossimi anni. Tu, anche tu la pensi così, Francesca? Io penso che cioè, ho avuto a che fare, diciamo, con questa cosa, perché comunque c'era un mio amico che faceva uso di spinelli e sosteneva che comunque uno spinello, si parte uno spinello alla settimana, poi parti con due, con tre, e come se fosse una sigaretta, e sosteneva che comunque dopo 10-15 minuti sì, mi calma, mi diverto un po', cosa c'è di male, sosteneva che fosse una cosa normalissima. Io comunque sono rimasta male perché non me l'aspettavo. E poi mi sono resa conto che comunque non è così nascosto come si pensa, è veramente dietro l'angolo, cioè sono delle cose che non ti aspetteresti mai. E poi magari chiedi all'altro tuo amico: ma lo sapevi che lui si fa le canne? Sì sì, ma anche io. E diventa una cosa come se fosse come bere il latte alla mattina, veramente. Alessandro, mi piacerebbe sapere da loro le motivazioni che spingono questi ragazzi. Io dico spesso come provocazione che non mi sono mai fatto una canna in vita mia, perché la realtà... Anch'io, ma non per moralismo. No, perché la realtà è talmente bella, piena di cose interessanti. Che non c'è bisogno di sostanze. Cioè, è la realtà, no, che è una canna, il mondo ti mette a disposizione nel bene e nel male una serie di esperienze che bastano a rendere la vita piena. Quindi mi piacerebbe capire da loro, che sono più a stretto contatto con persone che fanno questa scelta, cos'è che li spinge? È una forma di fuga dalla realtà, di insoddisfazione, non lo so, la paura di doverla affrontare, quindi di darsi forza in questo modo, Ambrogio, o la paura di risultare fuori luogo nel gruppo in cui fanno tutti così, o quando vanno in discoteca lo sballo, così sentono più disinvolti. Cos'è secondo te, Ambrogio? Secondo me sono molti fattori, per esempio la circostanza diciamo più tradizionale è la serata a casa di un amico, la serata in discoteca, gira la canna, allora provi anche te, ti piace, ti dici che poi non fa così male, e alla fine diventa un circolo vizioso per cui non smetti più e diventa, come ho detto prima, seriamente un problema. Ma non credo sia per evadere dalla realtà, cioè alla nostra età non vuoi evadere dalla realtà, non sei un quarantenne che ha perso il lavoro, con tre figli e allora ti dai all'eroina, per esagerare. Quindi non credo sia per evadere dalla realtà, credo sia invece per far parte del gruppo. E poi però, visto che è una droga e non è nulla di così scontato, anche se sembra ormai che la marijuana sia così, non lo so, tabacco normale, visto che è una droga ne diventi schiavo e uscirne poi diventa molto difficile. Giulia, invece l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'inquinamento, quindi il mondo che voi avrete tra un po', che già si sta creando, che già insomma è partito così da un po', l'uso che gli esseri umani fanno della natura, è una cosa che insomma ogni tanto vi costringe a pensare, a dire ma chissà tra qualche anno, o no, anche nei tuoi comportamenti quotidiani, è un tema abbastanza presente nella tua vita o no? Sì, molto presente a partire dal 2012, di cui si parla veramente tanto anche a scuola. Ah, finirà il mondo. È la profezia, no? Meglio usarlo oggi, quindi se ho una cicca in bocca la sputo per terra e spengo la sigaretta sul marciapiede e non faccio la raccolta differenziata, tanto finisce nel 2012. Ma se invece noi ci preoccupiamo anche dalle piccole cose di preservare l'ambiente, comunque si potrebbe pian pianino apportare delle modifiche poi a livello mondiale, però diciamo che non dipende da noi, si dovrebbe parlare con i capi di Stato che probabilmente non la pensano come la sto pensando io in questo momento, però è ricorrente il problema dell'ambiente, io mi rendo conto anche il clima o semplicemente quando vado in mare, 10 anni fa io trovavo le conchiglie sulla spiaggia, ora non ci sono più. L'avrà raccolte tutte Ambrogio forse ai tempi, no? Ma adesso, a parte l'ambiente, volevo chiedervi, a proposito di diversità, mi viene in mente l'immigrazione, mi viene in mente anche l'omosessualità, non so se è una cosa con cui ogni tanto vi confrontate, Francesca, che pensieri avete su questi temi? Io non penso nulla di male contro le persone omosessuali, l'unica cosa su cui non sono a favore magari sarebbe l'adozione da parte delle persone omosessuali, perché per adottare un bambino o una bambina che comunque deve crescere, deve avere dei modelli, ecco, se noi pensiamo che i nostri punti di riferimento sono i genitori, pensiamo a un uomo e una donna. Ovviamente se sono due persone dello stesso sesso la vedo un po' difficile, però per il resto, cioè, penso che a parte questo aspetto non ci sia nulla di male. C'è qualcuno di voi che la pensa diversamente, che la pensa... No, assolutamente. Luca, assolutamente. Per te la stessa cosa. Giulia? Io sono convinta che cioè, se fossi un omosessuale e io voglio, sono felice nell'adottare un bambino, penserei diversamente da come la pensa Francesca, però io devo anche pensare da genitore che sarò, che mio figlio o mia figlia deve crescere felice e poter dire io ho due genitori diversi tra loro che possono guidarmi in un mondo, però se sono felici loro e non fanno del male a nessuno, perché vietargli la loro felicità? Francesco, volevi aggiungere una cosa? È una forma di egoismo pensare se io sono una persona omosessuale e dico io voglio adottare un bambino perché sono felice, ma è una forma di egoismo perché poi il mio figlio non sarà sicuramente felice vedendo... Ma il bambino secondo te può essere più felice magari in un orfanotrofio, in un istituto? Sicuramente sarebbe più felice con delle persone, cioè con dei genitori... con dei genitori diciamo come tutti gli altri bambini, perché una persona la sente anche, sente l'importanza di avere delle persone che stanno accanto ma che hanno comunque delle convinzioni morali, ecco. Adesso per chiudere, visto che abbiamo pochissimo tempo, non so se volete intervenire tutti, Francesca, Giulia, Ambrogio, Luca, qualcosa, ditemi qualcosa che vi fa indignare particolarmente nel mondo in cui viviamo, nella vita di tutti i giorni. C'è un tema, qualcosa che proprio vi fa incavolare? Come vengono trattati gli immigrati, secondo me. L'ingiustizia. L'ingiustizia, Giulia, per Francesca l'immigrazione, gli immigrati, il modo di essere discriminati. E tu, Ambrogio? Per tornare un attimo alla politica, mi fa indignare per esempio l'ipocrisia di certi politici che nei manifesti elettorali mettono la propria immagine, adesso non dico chi è, con uno slogan sul matrimonio e poi... è la seconda moglie. Seconda, terza moglie a volte. Diciamo che loro tengono alla famiglia, ma soprattutto alle famiglie, come... diciamo, al plurale. Avete visto? Tenete d'occhio questi ragazzi, tenete d'occhio i ragazzi, le ragazze e i ragazzi, perché insomma non è tutto così schematico e banale come possiamo pensare. Basta per una volta lasciare il microfono aperto e vedete che vengono fuori veramente un sacco di cose interessanti. Alessandro Davenia, in questi 32 secondi che ci rimangono, che conclusione daresti tu dopo questo panorama che ci hanno dato Luca, Francesca, Giulia, Ambrogio? Che questa generazione qui ha bisogno di maestri che mettano loro in contatto con la realtà e soprattutto li aiutino appunto a ragionare con la propria testa. Credo che la grossa crisi della generazione attuale, dei giovanissimi, sia proprio una crisi di identità. Quindi nella misura in cui rafforziamo questa identità attraverso la testa e il cuore usati in maniera adeguata, avremo dei miglioramenti, un futuro pieno di speranza. Teniamo conto di questo, ha detto Alessandro Lavegna. Grazie Alessandro, grazie a Giulia, ad Ambrogio, a Francesca, a Luca e a Roberta Giordano, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. Sereni orizzonti a tutti.